Sa grande sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. E sempre in fila per tre, marciate tutti con me. E ricordatevi i libri di storia, noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione. Andiamo dritti verso la gloria. Buonasera a tutte e a tutti, ancora in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Questa è una nuova trasmissione che inizia esattamente in questo momento in cui sto parlando. È una trasmissione che vi è stata annunciata da uno spottino in questi giorni e forse l'avete sentito, almeno insomma chi ascolta spesso questa radio l'avrà sentito. E è una trasmissione che parlerà di scuola. Ora di buco è una trasmissione che parlerà di scuola dal punto di vista di lavoratrici e lavoratori della scuola, cioè dal punto di vista che persone che quotidianamente, come dire, per sbarcare il lunario o forse anche qualcuno per passione va a scuola appunto a lavorare. Però non facciamo tutti e tutte lo stesso lavoro, nel senso che io faccio l'insegnante ma qualcun altro no. Sì, spesso il punto di vista sulla scuola si ascolta da studenti e da insegnanti. C'è una parte che è poco conosciuta, di cui parleremo, che è quella di quelli che una volta si chiamavano non docenti, una definizione che già insomma si qualifica da sola per sottrazione, no? Come si direbbe, cioè non sei una cosa. In realtà è una parte fondamentale della scuola italiana, è quella un po' la struttura, un po' operativa su cui si poggia poi tutto il lavoro della scuola. Però essendo, rispetto agli insegnanti, per non parlare degli alunni, una parte insomma più piccola, ovviamente spesso e per altri motivi più svariati che magari nel corso delle trasmissioni andremo ad affrontare, ha difficoltà a far sentire la sua voce. E quindi però noi vorremmo non solo parlare come lavoratori e lavoratrici, ma questo è fondamentale, ma anche fare un discorso sulla scuola che coinvolga un po' tutte le realtà che con la scuola hanno a che fare. In fondo a scuola ci siamo andati tutti e ci dovrebbero andare tutti. Questo, apriamo una parentesi, perché anche questo è un altro tema da affrontare. Quindi crediamo che una scuola che funziona bene, una scuola che funziona male, sicuramente ha un riflesso non solo sulle famiglie che sono coinvolte, ma poi su tutto l'insieme della società. È una parte fondamentale della società e non a caso è sulla scuola che chiunque abbia in mente, come in questi ultimi, non ultimissimi anni, un progetto di intervento, per esempio in senso liberista, sulla società, è proprio lì che va poi a mettere le sue mani non sempre pulite. ci sono, insomma, dietro a questi microfoni anche altre voci che non so se intanto vi vogliono salutare. Buonasera a tutte e a tutti, un insegnante, precario anche se non troppo. E buonasera a tutte e a tutti, un'insegnante non precaria, anche se molto coinvolta nelle vicende dei precari. Buonasera a tutte e a tutti, personale ATA, cos'è il personale ATA? Diciamo, sciogliamo questo acronimo, è il personale amministrativo tecnico ausiliario, quelli più conosciuti, quelli che lavorano in segreteria, i bidelli, un tempo si chiamavano bidelli, ora sono gli ausiliari o i collaboratori scolastici, e gli assistenti tecnici, ma poi ci sono i guardarobieri, ci sono i cuochi, nei convitti, negli educandati, e lì anche esistono queste figure del personale educativo, che è anche un'altra figura poco conosciuta e che, di cui si sa poco. Piano piano impareremo a conoscere meglio anche che cosa significhi questa frammentazione poi anche all'interno del personale della scuola, perché poi la scuola comunque funziona per tutte le figure, i lavoratori che ci sono dentro, precari e meno precari. Io sono precarissima, diciamo, c'è sempre una fascia di precari un po' più precari degli altri, poi affronteremo anche varie terminologie tipo aventi diritto, non aventi diritto, eccetera. E io, se che ho parlato prima, sono ATA anch'io, però non sono precaria, me ne vorrei tanto andare ma non mi fanno andare via, quindi in questo senso sono più che stabile, purtroppo. E queste sono le voci che almeno per ora sentirete tutti i martedì dalle 16 alle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa a parlare di scuola. Penso e spero che non saranno le uniche, nel senso che magari, insomma, vorremmo coinvolgere anche, come dire, insegnanti di altri ordini di scuole, visto che i presenti sono tutti della scuola secondaria superiore, senza, insomma, prescindere ora dal contratto, insomma, con cui vengono assunti, e magari sentiremo poi voci anche da fuori, insomma, le mura del 56 di Via De Volsci, perché, insomma, quando ci sono delle cose da raccontare, come fa sempre questa radio, la faremo raccontare dalla voce di chi le vive, le lotte, le situazioni, eccetera eccetera. E un'altra cosa di cui vorremmo mettervi al corrente è la scelta che abbiamo fatto rispetto al nome di questa trasmissione, che si intitola appunto Ora di Buco, e forse la cosa più utile potrebbe essere provare a farvelo intuire attraverso un piccolo spezzone di un film molto noto che si intitola La scuola di Lucchetti, insomma, che è uscito ormai, mi sembra, nel 96, quindi, insomma, verso la metà degli anni 90. Ascoltatelo e poi ne parleremo insieme. Il mercoledì non posso assolutamente entrare alla seconda ora. E allora entri alla terza e vai in terza B. Però poi Giovanelli dove lo metto? Maiello, io vengo da Montecompetri. Fammi l'orario uguale a quello di Scalea che viene da Frascati. Così veniamo insieme e dividiamo la benzina. Sì, sì, va bene. Però qui mi si apre il problema. Cirrotta. Cirrotta ci avrà un buchetto. Non ci importa niente, dai. Niente buchi, non facciamo scherzi. Io alle 10 devo star fuori di qui. Che è quel buco il lunedì? Ma hai messo un buco lì? No, no, il mercoledì no, Io ho la bambina piccola, la devo portare al nido. Non posso entrare prima della seconda il mercoledì, mi raccomando. Io alle 5 del mattino sono proprio così come mi vedi, pronto per andare a scuola, sveglio. Perciò, per favore, dammi le prime ore. Io il sabato libero non l'ho mai chiesto. Quest'anno lo voglio. Hai da fare in parrocchia? A quale parrocchia? C'ho l'analista. No. Per favore, vedi se mi puoi mettere sempre le ultime ore. Io anche quest'anno non ho avuto l'esonero, quindi mi tocca tenermi sia le classi che la vicepresidenza, insomma. Come si dice, mettiti una mano sul cuore, Maiella. Me la metto, va bene così? Benissimo, benissimo. Questo era appunto lo spezzone che vi volevamo far sentire. Ora di Buco, quindi è... Forse, insomma, a scuola ve lo ricordate, da studenti e da studentesse, l'ora di buco per uno studente è quando non c'è nessuno, cioè quando invece di fare italiano, matematica, storia, qualunque altra cosa, c'è buco, cioè non c'è nessuno. nell'orario di lavoro di un insegnante l'ora di buco è quando ti fanno l'orario, ci sono delle ore in cui stai in classe e delle ore in cui non sei in servizio, e quest'ora in cui non sei in servizio è l'ora di buco. E naturalmente c'è chi non le vuole mai perché questo fa sì che tu stia a scuola più ore, c'è chi le vuole perché va a fare la spesa, c'è chi le vuole perché si stanca, o per qualunque altro motivo. Per me il motivo per cui questa dicitura ora di buco è corretta per questa trasmissione è perché a scuola, tra colleghi e colleghe, tra insegnanti e personale ATA, tra insegnanti e collaboratori scolastici, tendenzialmente si parla nell'ora di buco degli insegnanti, cioè quando noi così sciamiamo per i corridoi senza avere granché da fare. E avrete anche capito che probabilmente ci prenderemo un po' in giro, perché ci mancherebbe, insomma, da soli, quindi se ci volete prendere da soli e da sole, se ci volete prendere un po' in giro anche voi non c'è problema, perché poi spesso prenderci in giro ci fa anche un po' sopravvivere, no? In questa giungla, diciamolo, che è la situazione scolastica italiana. Vogliamo dare qualche numero anche? Allora, il telefono storico di Radio Onda Rossa è lo 06 49 17 50, però abbiamo aperto anche una mail, che è oradibuco@ondarossa.info. Vi invitiamo a scriverci da subito quanto più volete, e abbiamo aperto anche un blog da cui vi abbiamo fatto ascoltare lo spezzone del film di prima, perché è caricato su questo blog della trasmissione, che è, mi dicono di dirlo intero, quindi http://oradibuco.noblogs.org. Se lo mettete su Google, scrivete oradibuco.noblogs, perché sennò viene fuori un'altra cosa, ho sperimentato. E quindi niente, insomma, siamo qui anche per parlare con chi vuole parlare con noi, appunto, di scuola. E adesso vorremmo però spiegarvi anche perché abbiamo deciso di fare questa trasmissione, e però magari facciamo una breve pausa musicale, vi facciamo ascoltare un'altra piccola traccia e un pochino di musica, e poi torniamo con voi. You know how we do it. Let me introduce to you a brand new dance. I know you're gonna love it if you give it one chance. It's not complicated, not too hard. You don't even have to be. No, invece mi è piaciuta. Buonasera, ministro Profumo. Mi è piaciuta molto la sua proposta della riforma della scuola, complimenti. Premiare gli studenti migliori è giusto, ma io non gli darei dei soldi. Sa che cosa, ministro? Basta della carta igienica. Carta igienica, Scottex, sapone. Non ci sarà per tutti, ma che almeno i migliori possano andare a cagare in bagno mi sembra un passo in avanti stupendo, guardi. passé à Chouan. Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dopo Grace Jones con una domanda che noi ci siamo posti e probabilmente anche chi ci ascolta: per quale motivo, stimati professori, valorose professoresse e anche eccellenti lavoratori e lavoratrici della scuola, si siano dati alla radio? Anche perché qui è tutto organizzato da noi, quindi problemi tecnici, difficoltà, perdonateci perché non è il nostro mestiere, ma per quale motivo rischiamo questa figura e non ritorniamo nelle nostre aule blindate? Allora, la risposta che io mi do è che le leggende che girano su quello che succede nelle scuole, l'informazione in generale, è distorta. Questa è una cosa che noi condividiamo, abbiamo discusso di questo, e quindi un'ora a settimana potrebbe essere l'inizio di un'apertura, di un confronto con chi ci ascolta, per raccontare quello che avviene nella scuola. Sì, perché dicevamo prima di iniziare la trasmissione che di scuola si parla molto all'inizio dell'autunno, insomma, vabbè che mo la scuola comincia d'estate purtroppo, ma insomma si parla all'inizio della scuola, poi piano piano l'interesse scema, a meno che non casca un soffitto, questo è un altro argomento, in qualche scuola qualcuno magari purtroppo si fa male, è successo, ma grosso modo è vero, della scuola si parla come si parla di molte altre cose sui giornali e sui media, in maniera così roboante eccetera, ma poi il succo dell'informazione, quello che realmente succede, quali sono i temi veri, difficilmente viene alla luce. Ci sono ovviamente, adesso per esempio si parla moltissimo di questo cosiddetto concorsone, e se ne parla molto a sproposito secondo noi, noi non l'affronteremo adesso perché merita sicuramente un esame almeno di una trasmissione, non sappiamo se basterà, perché insomma pure questo ha fra l'altro opinioni diverse, voci diverse delle persone che sono coinvolte da questo concorso, che ricordo secondo il ministro Profumo dovrebbe garantire l'ingresso in 2 anni di più di 11.000 docenti tra scuola secondaria, superiori diciamo come si dice normalmente, medie, elementari e anche materne o scuola dell'infanzia. Qui infatti poi c'è anche un altro argomento, che sono i temi, le parole che vengono usate, cioè le parole che vengono usate come in molti altri tipi di questioni che vengono usate all'interno della scuola e che spesso poi escono anche dalla scuola, sono parole che più sono incomprensibili, e quindi cercheremo anche non solo di tradurle ma anche di spiegare che cosa significano, non da un punto di vista lessicale ma che cosa implicano. Per esempio, noi nello spot, per chi l'ha ascoltato, alla fine facevamo questa raffica di termini, no? Per esempio fecale organico, di fatto, di diritto, POF, eccetera, e vorremmo spiegare, appunto, ripeto, non il significato così letterale, ma che cosa significa sostanzialmente e come questo incide sulla vita di chi lavora dentro la scuola, delle famiglie e soprattutto dei ragazzi e ragazze, perché spesso si dimentica che la scuola dovrebbe servire proprio a loro e invece a volte sono qualche cosa che è anche fastidioso, no? Nella mente di qualcuno, certamente non nella nostra. Sì, appunto, si dice informare cosa succede nella scuola perché la maggior parte di noi abbiamo ricordi, insomma, di cosa era la scuola. Le persone ricordano cosa era la scuola quando andavano a scuola, dal punto di vista di studenti e studentesse, ovviamente, e di una scuola però che è di un altro tempo. E io credo che oggi sia molto cambiata la scuola rispetto a 20 anni fa, sto parlando, non rispetto a un secolo fa. E la scuola di oggi è diversa dalla scuola di 20 anni fa, e molto spesso le persone, insomma, non lo sanno. L'informazione, quella mass mediatica, insomma, dei media cosiddetti mainstream, di scuola appunto parlano poco o ne parlano in maniera molto tecnica, spesso disinformata e disinformante, oppure si va avanti, non lo so, in questo periodo per esempio sui giornali di scuola ne parla Scamarcio perché ha fatto un film in cui fa l'insegnante. Oppure dal punto di vista opposto sentiamo trasmissioni anche molto interessanti e molto dotte a volte, anche radiofoniche, diciamo, però sempre condotte da docenti universitari. Oppure appunto si parla di scuola parlando del fatto che siamo un branco di fannulloni che non hanno voglia di far niente e che non si capisce, questo gli insegnanti, il personale ATA si dà per scontato ma non si dice nemmeno, un branco di fannulloni che lavorano 18 ore alla settimana e che non si capisce cosa vogliano sostanzialmente. Non solo, che hanno 3 mesi di vacanze l'anno, che diciamo per i professori non sono 3 mesi, poi ne parleremo, il carico di lavoro è molto molto cambiato. Io lavoro nella scuola da 36 anni, per quello dicevo che non mi fanno andare via, no, perché voglio rimanere disoccupata, ma sapete che insomma adesso andare in pensione è complicato, e quindi ho visto insomma evolvere la scuola da tanti punti di vista, e questo sicuramente lo posso testimoniare. Però insomma per certi versi è vero che il professore a Natale c'ha quei giorni e così via, anche se quelli estivi si sono molto ristretti. Però a me personalmente, come lavoratrice del personale ATA, quindi come diceva la compagna, amministrativo, tecnico e ausiliario, dà molto fastidio quando chiudono le scuole che la gente per strada, al mercato eccetera, mi dica: vabbè, ma no, tu non fai niente, no? Io ho un mese di ferie l'anno come tutte le persone che lavorano nello Stato, perché non so se poi quegli altri come dovrebbero averlo, pure questo è un altro discorso. E poi c'è appunto la scuola coinvolta nell'attacco, come ricordava la compagna, coinvolta pesantemente nell'attacco a tutti i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego, che è partito insomma prima era così una cosa che si diceva: nessuno può essere licenziato, una volta che stai libero che accoltelli il dirigente poi comunque rimane al tuo posto eccetera. Questo è stato un attacco che ovviamente ha coinvolto pesantemente anche chi lavora nella scuola, e ovviamente è qualche cosa che ha a che fare con un progetto preciso, quello che dicevo all'inizio, no? Questa, qualcuno la chiama deriva, ma insomma liberista, è un progetto bello chiaro che comunque per quanto riguarda l'Europa si sta ormai dipanando benissimo in tutte le nazioni d'Europa con gradazioni diverse, per cui alla fine prima dico che tu non fai niente, che tu sei super garantito e così via, dopodiché ti comincio a stroncare dal punto di vista del carico di lavoro, dal punto di vista della vivibilità del posto di lavoro, dal punto di vista anche della retribuzione. Ricordiamo che con le prime finanziarie che furono fatte dal precedente governo, perché ce lo chiede l'Europa, come dicevano, e dal 2007 che nella scuola non viene rinnovato un contratto, ma soprattutto insomma, vabbè, immaginate però, che ci però prendiamo 13 euro il mese di indennità contrattuale, io 10 e nemmeno dal punto di vista normativo, soprattutto insomma fino poi al 95 mi pare la normativa dei lavoratori e lavoratrici della scuola era basata sulle, cioè erano leggi votate in Parlamento, cioè se ti davano un aumento eccetera oppure cambiava la normativa, erano decreti legge e provvedimenti comunque votati a livello legislativo. Poi hanno deciso che era più bello il privato, quindi è arrivato il suo contratto, però appunto è tutto bloccato e pure questo insomma va detto. Quindi attacchi di quel genere non sono campagne di stampa o esternazioni di Brunetta, perché ce l'ha con noi e con i lavoratori e lavoratrici pubblici e pubbliche in genere. C'è un piano che infatti poi è stato portato avanti. Sì, infatti anche noi, anche se senza entrare nel tecnico, però passeremo un po' in rassegna poi le varie cosiddette riforme che si sono succedute da cominciare da Berlin dal 2000 in poi. Poi avremo la Moratti, la Gelmini, Fioroni, fino ad arrivare appunto adesso al governo tecnico con il nostro ministro Profumo. E però io volevo così semplicemente dare dei numeri, tanto per renderci conto, perché poi sono i numeri presi dal MIUR, dal Ministero dell'Istruzione, che poi anche quello cambia, secondo il governo lo chiamano in un modo o in un altro, ma quello è. E presi che iniziano purtroppo al momento, questi sono i dati oggettivi che abbiamo trovato direttamente sul sito del Ministero, nel 2004 noi avevamo un complesso di personale, io parlo ora, mi riferisco solo ai lavoratori impiegati nella scuola, con contratti a tempo determinato, indeterminato, con contratti annuali, insomma tutte le varie contrattazioni previste. Beh, nel 2004 per esempio il MIUR ci dice che i lavoratori nella scuola, personale docente, educativo e data, quindi compreso il sostegno, quindi penso a tutte le figure, era di circa 952.236 persone in tutta Italia, e poi vabbè c'è tutta una scorporazione per regioni. Beh, adesso nel 2007-2008 non si capisce perché poi si siano fermati al 2007-2008 a dare sti numeri, ma forse noi lo intuiamo benissimo perché poi ci sono stati ulteriori tagli e quindi il personale si è sempre più ridotto. I più grossi direi, insomma, ricordiamolo, esatto. Quelli della Gelmini Tremonti sono stati appunto nel 2008. Esatto, quindi la nostra, come dire, malizia non è documentata. E beh, appunto dicevo, nel 2004-2005 erano 952.000, già nel 2007-2008 erano passati a 950.000 e rotti, insomma, quindi e lì appunto ancora non erano avvenuti i grossi tagli. Poi avremo modo magari nel corso delle altre trasmissioni di darvi maggiori ragguagli in merito. Sì, poi insomma per anticiparlo, i numeri che danno i sindacati di base sul frutto, diciamo, della perdita di posti di lavoro ottenuta da appunto la controriforma Tremonti-Gelmini sono 140.000 posti di lavoro persi tra personale docente e personale ATA. Ovviamente non si tratta di licenziamenti, ma di precari e precarie che hanno perso il posto e quindi sostanzialmente hanno potuto dire che loro non hanno licenziato nessuno. Però i posti di lavoro in meno sono circa 140.000 dopo questo taglio che è avvenuto tra l'estate del 2008 e l'autunno sostanzialmente. C'è chi l'ha definito il più grande licenziamento della storia d'Italia, a mio avviso non ha torto, nel senso che non è che è stata tolta la sedia dalla cattedra a queste persone, però non sono state più richiamate. E oggi, come diceva la compagna, noi dobbiamo fare un concorso per i prossimi 2 o 3 anni per 11.000 persone. Riflettiamo su questi numeri. Capiremo poi anche come è stato possibile questa cosa, nel senso che oggi le scuole sono ancora aperte, manca tutta questa gente, qualcuno potrebbe dire evidentemente erano in più. Diamo solo un dato, che sono diminuite le ore di scuola, poi magari ne parleremo più diffusamente. I ragazzi e le ragazze vanno meno a scuola, ci sono meno ore di scuola e quindi ci sono meno insegnanti, meno personale ATA, meno... Con differenze ovviamente grandi tra i licei e invece gli istituti tecnici o professionali, dove la falcidia è stata proprio pesante, e questo è sicuramente un messaggio proprio nemmeno mascherato, no? Della considerazione che si ha dell'istruzione nel suo complesso e soprattutto di un certo tipo di istruzione che sta ritornando ad essere considerata, non che non lo fosse, però nei fatti insomma c'era in passato una certa attenzione formale, no? Ai vari tipi, ai vari gradi di istruzione superiore, perché come sappiamo con la riforma dei, mi pare, 60-61 viene introdotta la scuola media unica e quindi quella è uguale per tutti. E poi ci sono, insomma, veramente noi in Italia abbiamo, credo, rispetto agli altri paesi europei, una differenziazione enorme di indirizzi scolastici nelle superiori. E quindi questo già è un dato. Ma un altro modo di fare i licenziamenti senza farli è stato che a quel punto era chiaro, per chi non c'era ancora arrivato, che tenere tutta questa grande numero di precari e precarie era proprio funzionale allo scopo, che è qualcosa di cui ti puoi sbarazzare senza che poi venire accusato di avere licenziato. Un altro ovviamente sistema è stato quello di aumentare il numero di alunni e alunne per classe, e ovviamente questo qui riduce ovviamente gli insegnanti, non riduce in teoria il personale amministrativo, tecnico, ausiliario, tecnico, cioè il tech, vabbè, questi sono altri, comunque diciamo grosso modo sì, non riduce il personale ATA, ormai insomma abbiamo capito che cos'è, ma perché, come si dice, per chi si fosse messo in ascolto ora, poi ogni tanto lo ripetiamo, cioè per il personale non docente della scuola, che ci capiamo meglio, perché questo è legato al numero così tout court degli alunni dentro la scuola. Però che si è fatto? Quello è, diciamo, c'è una tabella, ogni tot alunni te ne scatta uno in più a seconda insomma di varie gradazioni. Ovviamente però su questo, che non andava bene, la Gelmini che ha fatto, ha tagliato così, te ne spettano 8, io te ne do 7, ha levato un, mi pare, più di un quarto, insomma, un 17%, no, scusate, meno, il 17%, comunque così, a campione, perché i criteri poi non si sono capiti, per cui in una scuola ha levato un ausiliario ma ha lasciato tutti gli amministrativi, in un'altra ha levato l'amministrativo, insomma non è che si è capito bene. Io un'idea ce l'ho, perché funziona pure molto nelle scuole, purtroppo in determinate scuole, quindi il criterio dei santi in paradiso, perché sennò non te lo spieghi, ed è intuibile che nei licei per esempio i santi in paradiso, forse per l'estrazione sociale di chi comunque continua ad andare al liceo, dei loro genitori soprattutto eccetera, e in alcuni licei in particolare è più facile che ci siano i santi in paradiso, se no sto criterio sinceramente io non me lo sono spiegato, però è arrivata pure lì la falcidia. E quindi, visto che abbiamo parlato molto di Gelmini e che prima di chiudere vorremmo anche darvi le ultime motivazioni, che non sono ultime in termini, come dire, di importanza, per cui vogliamo fare questa trasmissione, io vi farei sentire un pezzo che della Gelmini parla, giusto appunto. Studenti in lotta contro la Gelmini, maestri unici. Ehi, hey, voi approvate la ragione, approviamo nuovi casini. Bombo clan. Maestri unici in qualità e non in quantità. La politica occupa vite, noi occupiamo le facoltà. Sarà ribellione, la sua forza massa è dotto. Nel Parlamento la legge, nelle strade 68. Tremonti fa più tagli che il nostro in osteria. Ridurre gli sprechi nella scuola per aumentarli in polizia. Della renda ventennio pare ci sia nostalgia. Bambini in grembiulini, l'unico maestro in regia. Ha mutato nel cesso 50 anni di pedagogia. Per insegnare un'altra scuola, un altro futuro, un'altra via. Test d'ingresso, questa è la loro integrazione. Scambia democrazia con la repressione. Noi non abbiamo paura mai. La crisi non la paghiamo noi. La lotta sarà dura ormai. Personale, blocco delle assunzioni, aumentano i precari, diminuiscono le assunzioni, le università sono più simili a fondazioni, la ricerca è libera di seguire nuovi padroni, è la scuola d'élite che piace tanto Berlusconi, solo un dittatore non accetta discussioni, ministri delle riforme per gli esami vanno a sud, per le prossime riforme noi vogliamo Robin Hood, se non capisce la protesta per cui mi impegno, catalogio il mio un insegnante di sostegno, una scuola chiusa è una prigione aperta, bocciate per condotta il fiduista che governa, non voglio voti in decimi. È come postillano nella scuola della Germini, questa è quella dei Balilla. Non voglio voti in decimi. È come postillano nella scuola della Germini, questa è quella dei Balilla. Noi non abbiamo paura mai. La crisi non la paghiamo noi. La lotta sarà dura ormai. Come people say, noi non abbiamo paura mai. La crisi non la paghiamo noi. La lotta sarà dura ormai. Come people say. Il difensore dei beduini. Beduini, accomodate. Qualcuno avrebbe dovuto avvisare. E io non ci sarei proprio andato a scuola. Avrei lasciato perdere. E invece nessuno mi ha detto niente. E mi hanno fatto prigioniero a 6 anni. Una creatura. E non mi hanno rilasciato più. E a che punto? Non lo so. Ma in 30 anni di insegnamento avrò avuto 3-4 mila alunni e uno, ma dico uno, che abbia fatto carriera. Nessuno. Ma perché in 30 anni di carriera non ho incontrato nemmeno un membro della futura classe dirigente? Tu te le poni queste domande? Perché la classe dirigente non viene a studiare francese da me? Ma che ci ho fatto io alla classe dirigente? E con le parole di Mortellaro, che appunto è uno dei prof che sono i protagonisti del film di Lucchetti di cui sopra, di cui abbiamo fatto sentire questi due spezzoni, ma che gli ho fatto io alla classe dirigente, a questa domanda magari risponderemo in un altro momento, se non so se qualcun altro qua si sente perseguitato dal fatto di non avere studenti che fanno carriera, ma credo che dipenda soprattutto da dove lavori, se c'è gli studenti che fanno carriera o no. Sostanzialmente, però, appunto, vorremmo, una delle motivazioni per cui vogliamo parlare di scuola ci riguarda come lavoratori e lavoratrici, ma anche no, ci riguarda così, tout court, come persone, come compagni e compagne, come quello che volete, insomma, sostanzialmente, perché noi crediamo che la scuola pubblica, così come è stata concepita in questo paese, almeno insomma durante la scuola, la storia repubblicana, abbia subito degli attacchi particolarmente forti, diciamo negli ultimi 15 anni. Quindi la scuola non solo intesa come noi che ci lavoriamo e a cui insomma vengono lesi i diritti acquisiti, non vengono concessi altri diritti, ma la scuola è intesa appunto come sistema di istruzione pubblico che viene messo fortemente in discussione innanzitutto dai soldi che vengono tagliati continuamente dalla spesa pubblica, e quindi ovviamente, essendo che con i fichi secchi non si fanno le nozze, con 3 lire non si fa una buona scuola, insomma, senza girarci tanto intorno. Ma gli attacchi sono stati forti e sono stati soprattutto istituzionali, cioè sono stati soprattutto di chi questo paese ha governato, prima ancora che delle parti politiche e della società nel suo complesso. Noi facciamo partire, così confrontandoci tra di noi, a nostro parere l'attacco formidabile alla scuola pubblica parte sostanzialmente da una riforma molto nota, insomma quella di Berlinguer, e quindi stiamo parlando del 1999, non che prima non ci fossero attacchi alla scuola pubblica, ma con Berlinguer diciamo lo spostamento è stato grosso, c'è stato un cambiamento molto imponente nel modo di concepire il sistema scuola pubblica, perché è stata approvata quella che si chiama legge sull'autonomia. La parola sembra molto bella, il contenuto però, quando poi lo si va a vedere, molto meno, perché sostanzialmente è stato frantumato un sistema unitario di istruzione per andare invece a dire che ciascuna scuola ha l'autonomia di per sé. per esempio, per dire che ciascuna scuola approva i progetti che ritiene più importanti, perché ciascuna scuola approva un suo piano dell'offerta formativa, il famoso POF, che è una delle parole cretine che si usano nella scuola. Il piano dell'offerta formativa sostanzialmente è l'approccio con cui quell'istituto e non quell'altro si pone davanti al problema dell'istruzione. Generalmente i POF sono pieni di parole molto retoriche, molto vaghe, eccetera, ma a volte anche invece di come dire, forse valerebbe la pena di leggerli prima di iscriverci, ecco, nelle scuole. Comunque nei POF appunto ci sono i progetti, e quindi i soldi non vengono più dati a pioggia nel sistema globale dell'istruzione, ma vengono mandati su singole progettualità. Questo per esempio è uno delle caratteristiche della legge sull'autonomia. Un'altra, che forse è più comprensibile perché non si occupa di scuola, poi di questo ne parleremo meglio, è il linguaggio aziendalistico, che oggi viene come dire, con superficialità anche, insomma, ormai accolto nella scuola. Si parla di crediti, di debiti, di performance, di profitto, di produttività. Tutto questo linguaggio aziendalistico è stato introdotto dalla riforma Berlinguer, e insomma sappiamo che in genere le parole si portano dietro una sostanza, o la sostanza determina le parole. Non voglio entrare nella disputa filosofica, però sicuramente sono collegate queste due cose. Le parole veicolano concetti che veicolano visioni del mondo, quindi è come si prefigurano il campo dell'istruzione, l'educazione. E questo che dicevi appunto della visione aziendalistica, cioè anche l'istruzione e l'educazione è una merce di scambio, una merce che si compra, una merce che si quantifica. Quindi meno rispetto ai miei tempi della scuola, in cui c'era anche la visione, il pensiero critico e tutta una serie di valori, di concetti, insomma, a cui ci siamo formati, e adesso tendono a scomparire, tendono veramente ad annacquarsi o a riempirsi di parole, di retorica, di progetti. Tu parlavi del POF appunto, no? Ecco, anche lì, se il genitore che va a scuola va a vedere il piano dell'offerta formativa, che dovrebbe essere uno dei criteri per cui seleziona una scuola invece che un'altra, ci sono scuole che ho visto hanno un libro completo e ci sono scuole che hanno quattro pagine in croce. Sto parlando per esempio in questo caso di una scuola media, quindi scuole medie equivalenti, no? E quindi che appunto si pone, come dire, sul piatto: io offro questo, quindi sono, e ricevo più fondi, perché poi appunto dietro il POF sono legate, c'è tutta una progettazione, una ricerca fondi, eccetera, e non si va più al cioè, appunto, l'istruzione, l'educazione, il formare coscienze critiche o meno, non se ne parla più, insomma. Sì. E poi anche questo POF, comunque i soldi, poi al di là dell'impostazione generale del POF, che appunto spesso, proprio come si diceva, è vuoto, cioè sono parole altisonanti, è meglio che non significhino niente, perché quando cominciano a significare non è spesso una buona notizia. Comunque poi i soldi per questo si quantifica, si concretizza anche in questi progetti che vengono fatti a margine del programma, poi sì, in un certo senso vi rientrano e così via, ma che richiedono soldi, e questi soldi arrivano dal famoso, per la maggior parte dal famoso contributo liberale, come viene chiamato, che non c'entra niente col PLI, il partito che è morto e defunto per fortuna, ma significa che in realtà è al di là della tassa governativa, quella che si paga su un apposito bollettino, sono soldi che vanno direttamente all'istituzione scolastica e in teoria dovrebbero essere facoltativi. Ora è chiaro che in una determinata scuola, di una determinata zona, di una determinata città, con una certa estrazione sociale, tu puoi permetterti di chiedere una determinata cifra, in un'altra scuola questo non te lo puoi permettere, e quindi questo ha ovviamente tutto un ricasco su questo POF, a prescindere da altre considerazioni. Poi, se vogliamo, qui potremmo, penso noi, raccontare un'aneddotica anche divertente su quali sono poi questi progetti, perché sembra che il dovere spesso di molti insegnanti sia quello di fare un progetto a tutti i costi, e noi ce ne abbiamo per esempio uno, non diciamo i nomi delle scuole ovviamente perché noi poi di riflessologia plantare che no, magari dice guarda, alla fine poi può essere che è più utile del Cineforum, dove il film è più nuovo che proiettano, è che ne so, degli anni 50, no? Per cui ce ne sono di bellissimi, ma adesso non mi vengono i titoli, ma insomma a qualcuno piace Caldo, ecco, per esempio, sì, sicuramente è un bel film, ma penso che un ragazzino dei 15-16 anni possa sopravvivere anche senza questo film. Sarebbe importante, approfitta, cioè il cinema veramente ti dà una possibilità sconfinata, no? Di affrontare temi, eccetera. Quindi spesso sono veramente involucri vuoti che bisogna riempire a tutti i costi del nulla. Ma questo pure lo riprenderemo, è un argomento enorme. Invece ritornare un attimo sull'uso del linguaggio, sulla modifica del linguaggio che poi permette, no, l'introduzione di questo modello liberista, capitalista, e quindi già dal 1999 con Berlinguer si comincia a dire di misurare, di valutare. E poi si passa immediatamente alla legge Moratti del 2003, in cui nell'articolo 1 si dice delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni, a fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno, bellissimo, e delle scelte educative della famiglia, sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale anche ispirata ai principi della Costituzione. Vabbè, poi riflettiamo magari su questa, qual è l'altra fonte, no? Oltre alla Costituzione che dovrebbe guidare, come dire, un insegnante all'interno della scuola. E, col decreto Bonetta del 2009 abbiamo l'apoteosi, ovviamente, e quindi la prestazione, che già mi incute un po' di timore, mi mette un po' in ansia, prestazione lavorativa, selettività, concorsualità nelle progressioni, riconoscimento di meriti e demeriti, sto leggendo, il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, quindi viene scritto quello che viene, no, pubblicizzato, propagandato sui fannulloni, i docenti fannulloni. Titolo 2, misurazione, valutazione e trasparenza della performance. La performance è organizzativa e individuale, quindi la performance è singola e anche di gruppo. Erogazione dei premi, monitoraggio della performance, sistema di misurazione e valutazione della performance, piano della performance, relazione sulla performance. Siamo arrivati ad oggi, e che i crociati del merito, così io li chiamo, affermano che si deve misurare la performance di un allievo di 7 anni in lettura, come legge un ragazzino a 7 anni, per calcolare quale sarà il suo stipendio a 35 anni. Ora la domanda che pongo a tutti noi e a tutti voi è: come si è riusciti ad arrivare a questo livello, a questo punto, performance di un allievo di 7 anni, partendo dall'articolo 34 della Costituzione, che diceva la scuola è aperta a tutti, i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E ovviamente le cose da dire sarebbero tante, tante altre, ce ne sono venute mentre parlavamo in mente molte, ma più o meno credo che vi abbiamo spiegato perché abbiamo deciso di fare questa trasmissione, perché abbiamo deciso di farla a onda rossa, e non solo perché non ci vuole nessun altro, ma anche perché anche perché noi vogliamo stare qua, e quindi niente, io comincerei forse ad avviarci verso la fine di questa prima puntata dell'Ora di Buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, e vi ripetiamo tutti i modi per contattarci. Diciamo che in questo momento e tutti i martedì dalle 16 alle 17 ci potete contattare al numero di Radio Onda Rossa, che è lo 06 49 17 50, ma ci potete anche scrivere una mail, anzi vi invitiamo caldamente a farlo, perché vorremmo che questa trasmissione fosse appunto occasione di confronto e di dibattito, perché uno dei problemi, a mio parere, che attanaglia la scuola è che di fatto non ne parla nessuno di scuola, non c'è nessun dibattito in questo paese su che significa scuola, istruzione, eccetera eccetera, e quindi un pochino, un pezzettino lo vorremmo fare a partire da questa trasmissione. Quindi la mail è oradibuco@ondarossa.info. Poi abbiamo anche un blog dove magari riusciremo a caricare qualche documento interessante. Il blog è http://oradibuco.noblogs.org. Con questo forse sono le 16:56. Sì, un invito a chi ci ascolta, noi lavoriamo tutti e tutte nella scuola, quindi può darsi che nonostante il nostro sforzo di essere chiari e chiare, qualche cosa magari la diamo per scontata. È un rischio che si corre, per cui assolutamente ci serve il vostro riscontro, quindi l'invito, lo ripetiamo, a contattarci in tutti i modi che vi abbiamo illustrato. E io vorrei fare l'invito anche a quei lavoratori dell'indotto della scuola, perché poi per esempio ci sono mense, appalti, subappalti, comunque appunto il mondo della scuola è molto ampio e quindi magari è anche loro a intervenire, a raccontare quello che magari, ecco, anche noi come personale non riusciamo magari a sapere, perché sarebbe utile conoscerlo. Detto questo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 16, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Se ci volete ascoltare in streaming potete farlo attraverso il sito di Radio Onda Rossa, che è www.ondarossa.info, cliccando su Ascolta la diretta. E se volete contribuire a questa radio, che non soltanto ascoltandola, è una radio insomma che è nell'etere dal 77, senza pubblicità, senza partiti e senza padroni, potete farlo attraverso il bollettino postale, che è il 6180 4001, intestato al Laboratorio Culturale 2001, via De Volci 56. Potete farlo dal sito cliccando su Sostieni e scoprirete metodi veramente innovativi e moderni per farlo, oppure potrete farlo nel modo più classico e più piacevole possibile, cioè venendo negli studi di Radio Onda Rossa al 56 di Via De Volci. Vi lasciamo con una splendida canzone di Luigi Tenco, che credo parli molto di scuola. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi, e quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato. E vi vogliamo ricordare anche che la trasmissione degli studenti meti auto-organizzati Regione Air da questa settimana passa al mercoledì dalle 17:15 alle 18:15, non è più il martedì, ve ne sarete accorti perché ci siamo noi, è il mercoledì, e quindi ovviamente vi lasciamo all'ascolto di tutte le trasmissioni di Radio Onda Rossa, in particolare del martedì autogestito da femministe e lesbiche, che salutiamo con affetto, amore e felicità per il loro rientro, sono dall'altra parte del vetro perché ricominciano oggi dopo l'estate, e poi la consueta programmazione dei prossimi giorni di questa radio. Ciao. Mi hanno detto che un giorno tu gridavi alla gente